Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. E sì, a giugno il fisco batte cassa fra gli anticipi dei versamenti per la dichiarazione dei redditi. È ufficialmente aperta anche la stagione del versamento dell'acconto ICI. È una prima scadenza importante, l'acconto viene versato entro il 16 giugno, quindi entro in metà del mese. Si tratta dell'imposta comunale sugli immobili. Come ricorderete, l'ICI sulla prima casa è stata abolita, ma ci sono ancora molte eccezioni, per cui è bene ricordare a tutti i contribuenti come devono comportarsi con questo tributo. Fra l'altro, gli enti locali che deliberano sull'imposta comunale sugli immobili non si comportano tutti allo stesso modo, per cui è bene fare proprio un po' un quadro chiaro. Chiaramente non potremo darvi l'entità del tributo per ogni singola città, ma intanto è bene che questo si sappia. Il Sole 24 Ore, per chi volesse conoscere tutto ciò che attiene all'ICI, ha pubblicato qualche giorno fa una guida che si vende separata rispetto al quotidiano, quindi dovete chiederla all'edicolante. È una guida proprio per capire chi paga, quali sono le aliquote, le detrazioni e come si versa l'acconto. Se non avete modo di acquistare la guida, c'è Salva Danaio e quindi potete fare le vostre domande al nostro numero verde, che è sempre l'800 24 00 24, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. Chiaramente alle vostre domande non risponderò io, medierò i vostri quesiti al nostro Luigi Lovecchio, dottore commercialista esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Per una volta, tanto Lovecchio, non parliamo dell'IVA sui rifiuti, che è un altro nostro grande incubo, ma torniamo alle scadenze fiscali con le quali che affrontiamo mediamente un po' più volentieri rispetto invece a quella che è una rogna da qua Non si riesce ad uscire. Lovecchio, buongiorno. Eccoci qua. Allora, ho ricordato i numeri per intervenire in diretta. Altri numeri sono quelli della borsa di questa mattina, una borsa che è piuttosto altalenante perché è partita molto male la seduta europea dopo i rialzi di ieri. Come al solito le prese di profitto non si sono fatte attendere e poi cambio di nuovo di seduta. Adesso sono tutti quanti in rialzo gli indici, abbiamo un più mezzo punto percentuale a Francoforte, Londra, Parigi più 0,87, Milano più 0,93%. Oggi alcuni casi stanno scuotendo un po' l'attenzione degli investitori. Uno è quello di British Petroleum, lo avete sentito anche nel giornale radio ieri, il titolo a Wall Street è crollato del 15% per la questione della Marea Nera nel Golfo del Messico. Qualcuno addirittura teme che i danni saranno talmente enormi che il gruppo dovrà pagare addirittura con la bancarotta. Adesso, se questo si verificherà, non lo sappiamo, sembra anche piuttosto prematuro per poterlo dire, ma di fatto figuriamoci se gli speculatori non approfittavano anche di questa situazione facendo tracollare il titolo. A Londra oggi era partito piuttosto male, adesso sta recuperando, BP perde circa 3 punti percentuali. Oggi riunione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, vengono comunicate le nuove stime anche sulla crescita europea, sull'inflazione e sugli altri indicatori economici, e poi probabilmente sarà anche piuttosto acceso il dibattito sugli acquisti di bond governativi, quindi dei titoli di Stato dei governi dell'Eurozona da parte della BCE, proprio per affrontare la crisi del debito sovrano in Europa. I migliori titoli di Milano: Autogrill più 3,73%, Exor più 2,62%, Banco Popolare più 2,51%, Fiat più 2,33%, Unicredit più 2,26%, Atlantia, la Popolare di Milano più 2 anche per Pirelli, più 1,70% per Buzzi Unicem. E ovviamente Eni è il peggior titolo, risente della crisi di British Petroleum che sta trascinando a ribasso tutti i titoli del settore in tutta Europa. Eni perde mezzo punto. E in tutto questo intanto l'euro recupera abbastanza vistosamente. Sul dollaro il rapporto di cambio è a 1,20,57. Siamo in pieno clima calcistico, peraltro cominciano i mondiali, come sapete bene la nostra nazionale gioca il 14. Noi su questo tema, anche se non c'entra molto con l'ICI, che è il tema di Salva Danaio di oggi, vi preannunciamo già una sorpresa per la fine di Salva Danaio, quindi abbiate pazienza di attendere fino alla fine. Salva Danaio pure sposa il tifo, naturalmente non potevamo fare altrimenti. Nel frattempo però sentiamo come dobbiamo comportarci con l'imposta comunale sugli immobili. Anche se il versamento dell'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, riguarda una platea meno ampia rispetto ad alcuni anni fa, è bene non dimenticare che il 16 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto per l'anno in corso. Come l'anno scorso, non deve essere effettuato il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la cosiddetta prima casa, ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ossia immobili di lusso, ville e castelli. Per quanto riguarda la prima casa, quella dove il contribuente ha la residenza, l'esenzione ICI si applica anche alle pertinenze dell'abitazione, come garage, box, cantine e soffitte. Qui però valgono le regole stabilite dal comune, per cui se ad esempio un comune ha deliberato un numero massimo di pertinenze agevolate, l'esonero ICI varrà solo per questi immobili. Per chi deve pagare con bollettino postale oppure utilizzando la delega modello F24, le modalità di calcolo sono quelle di sempre. La prima rata va pagata appunto entro il 16 giugno ed è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno e, per comodità del contribuente, si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata, da pagare a saldo, va versata tra il 1 e il 16 dicembre dell'anno di riferimento e si calcola applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune di competenza per l'anno in corso, sottraendo quanto versato in acconto. È comunque possibile anche pagare l'ICI in un'unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune per l'anno in corso. E insomma, la nostra scheda proponeva un vademecum sintetico delle regole per fare questo versamento e noi adesso prendiamo punto per punto e lo specifichiamo ulteriormente con il nostro Luigi Lovecchio, ma naturalmente potete interagire con noi all'800 24 0024 oppure ci potete scrivere i vostri messaggi al 349 238 6666, già qualche ascoltatore pronto ad intervenire, adesso lo facciamo ascoltare appunto Luigi Lovecchio, però direi di partire anche con altre domande. Allora, esenti i contribuenti che sono proprietari della prima casa da 2 anni dal versamento di questa imposta. Luigi, possiamo ricordare anche quando è stata introdotta questa novità? Sì, è stata introdotta a metà del 2008, e quindi diciamo già il 2008 e il 2009 si è avuta questa esenzione dell'abitazione principale. Non riguarda solo l'immobile adibito direttamente ad abitazione principale, ma anche alcune fattispecie di immobili assimilati all'abitazione principale che fossero state deliberate nei regolamenti comunali. Quindi, per capire se si ha diritto a questa sorta di estensione dell'esenzione, bisogna guardare le delibere dei comuni. Certo, e quindi a parte l'estensione, poi anche le aliquote vengono fissate dalle amministrazioni comunali? Anche le aliquote, qui però voglio ricordare una regola che esiste già da un paio d'anni, anche questa introdotta nel 2008, è fatto divieto ai comuni di incrementare le aliquote fino al 2011, quindi anche per il 2010 le aliquote potranno solo essere abbassate rispetto al 2009, non potranno essere elevate. Ci sembra abbastanza improbabile che molti comuni lo abbiano fatto quest'anno, date le cattive acque in cui i bilanci versano e anzi le amministrazioni cercano di raccattare quanto più possibile, no? Però insomma, già che non possano alzarle è una buona notizia. Esatto, direi fermiamoci sul fatto che non possono alzarle. Esatto. No, tra l'altro mi stavo chiedendo adesso così, sempre riferendoci al fatto che sono le amministrazioni comunali che fissano le aliquote, sulla base di che cosa vengono fissate possiamo ricordarlo? E magari per esempio una casa che ha le medesime caratteristiche ma è situata in posti completamente diversi appunto in Italia, le aliquote sono simili oppure possono variare enormemente, Lovecchio? La forbice è dal 4 al 7 per mille, con la possibilità di arrivare fino al 9 per mille in particolari situazioni di immobili destinati all'affitto e rimasti sfitti. All'interno di questa forbice, ripeto, forbice ordinaria 4-7 con eccezionalmente la possibilità di portarla a 9, l'autonomia dell'ente è totale, quindi ognuno decide quello che gli pare sulla base ovviamente delle esigenze di bilancio. Allora, la prima casa dicevamo è esente sulla base di questo decreto legge del 2008, il numero 23, che poi è stato convertito in legge nel luglio del 2008, e la legge è la 126 che quindi stabilisce l'esenzione per la prima casa. E le eccezioni, dicevamo appunto, un po' le abbiamo anche citate. L'abolizione dell'ICI per esempio non riguarda quelle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, quindi abitazioni di pregio, di lusso, signorili, ville e castelli, giusto Lovecchio? Sì, esatto. Sì, esatto. Quindi insomma tutti coloro che possiedono un castello nel nostro paese comunque l'ICI devono pagarla. Sì, esatto. Adesso a parte questo, però insomma magari l'abitazione signorile non è poi così infrequente, insomma un bel centro, una bella zona di Milano in centro, ma anche in altre province, in sostanza in altre località. Sì, diciamo che qui si pone un problema di aggiornamento dei dati catastali. Questo è un problema che è stato segnalato tante volte anche da Radio 24, sul quotidiano eccetera, cioè per gli immobili che vengono che sono di vecchio accatastamento, magari la qualifica di A1 veniva data con una certa maggiore elasticità. Oggi invece abbiamo degli appartamenti che sono piuttosto di pregio, però non sono classificati come A1, e che se magari io vado a rapportare, a paragonare ad un appartamento più antico che invece ha avuto l'A1, non ha niente di meno rispetto all'appartamento signorile di diversi anni fa. Ma questo fa parte delle sperequazioni e dei problemi di aggiornamento dei dati catastali. Il contribuente deve far riferimento a quello che risulta in catasto. Certo, se ravvisa degli errori o delle errate classificazioni, ha il diritto di chiedere una rettifica. Allora, vedo già molti ascoltatori che fanno riferimento all'obbligo o meno di pagare l'ICI in case che abitano ma che non sono di loro proprietà. Come va gestito il rapporto col proprietario dell'appartamento? Se io sono in locazione, a chi? Io immagino che come dire, il versamento del tributo sia in carico al proprietario, però ci si può anche accordare diversamente lo vecchio? Ma allora, per legge il versamento del tributo è sempre a carico di chi vanta o il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento, per cui l'inquilino non deve assolutamente, non è in alcun modo tenuto a pagare l'ICI. Nulla vieta che le parti si accordino liberamente, anche se francamente non riesco a intuirne, diciamo, la finalità. Grazie. Si accordino per dire che tu mi rimborsi, che tu inquilino mi rimborsi in parte il pagamento dell'ICI, ma qui siamo nell'ambito di accordi liberi presi privatisticamente tra le parti. L'inquilino non è mai tenuto a pagare l'ICI, chi paga l'ICI è solamente chi vanta il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento. Chiarissimo. Allora, cominciamo già a sentire i nostri ascoltatori che ci stanno già chiamando numerosissimi all'800240024. La prima telefonata arriva dalla provincia di Vicenza ed è quella di Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie Lorenzo per aver chiamato. Ci dica tutto. Ecco, io volevo dire questo. Le ricevute dell'ICI mi avevano sicuramente diversi anni fa detto in comune di tenerle 5 anni, poi si sa, si tengono per 10 anni. Ecco, io ho qui davanti la comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia da inviare al centro operativo di Pescara. Sì. In fondo a destra di questo modulo c'è scritto inviare praticamente copie ricevute ICI dal 1997. Nel 2010 chiedono le ricevute ICI del 97, quindi io voglio dire che in realtà le ricevute dell'ICI non bisogna tenerle sempre. No, tra l'altro Lorenzo, guardi, abbiamo fatto credo qualche milione di puntate sul tema delle ristrutturazioni, tutta la documentazione che è necessario allegare per fare la DIA piuttosto che per fare la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara. Questa è la prima volta che la sento, questa questione che bisogna allegare anche le ricevute del versamento dell'ICI. Lo vecchio le risulta? Addirittura devono risalire a più di 10 anni prima, dal 97. Mi sembra assolutamente. No, anche perché se Lorenzo avesse comprato l'appartamento l'anno scorso, quando è stata introdotta peraltro l'ICI? Nel 93. Ah, ecco, quindi. Sì, no, vabbè, sono 97, sì. C'era l'ICI. Ecco. No, perché avesse, infatti che avesse fatto addirittura il fisco, insomma, che un errore così macroscopico effettivamente era impossibile. No, sì. Però le risulta anche a lei, adesso non so quanto ne sa di ristrutturazione, di documentazione che è necessario allegare per fare. Di questo argomento diciamo non mi occupo in modo specifico, se ne occupa il mio amico e vostro collaboratore Luciano De Vico. È vero. No, però insomma, le regole di buonsenso, secondo lei quanto tempo ci suggerisce di conservare le ricevute dell'ICI? Allora, il discorso è quello che è stato ricordato prima. Allora, ai fini del rapporto con il comune, il periodo massimo di conservazione è di 5 anni, perché gli accertamenti decadono nell'ambito di 5 anni. A fini civilistici, cioè per finalità che esorbitano il rapporto tributario con il comune, il termine della prescrizione ordinaria è quello di 10 anni. Quindi, francamente, una richiesta che riguardi il 97. Mi lascio un po' perplesso, considerato che sta arrivando adesso, che è il 2010, ma anche se fosse arrivato l'anno scorso, diciamo, le cose non... Ma poi allegarlo alla pratica per il riconoscimento delle detrazioni fiscali ai fini della ristrutturazione, questa è una cosa molto curiosa, Lorenzo, le assicuro che la approfondiremo senz'altro. Eccoci qua in diretta di nuovo. Allora, c'è un ascoltatore che ci ha scritto relativamente alla questione che abbiamo affrontato prima, cioè del fatto che per inviare al centro operativo di Pescara tutta la documentazione necessaria per poter beneficiare degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, c'era l'ascoltatore che si chiedeva come mai dovessi allegare anche tutte le ricevute dei versamenti ICI dal 97 ad oggi. Adesso cerco di capire bene quello che ci ha scritto questo signor Alessandro di Siena, dopodiché magari poi ve lo racconto anche. Intanto con Luigi Lovecchio stiamo appunto affrontando il tema dell'ICI come scadenza prevista per il 16 giugno. Tra l'altro, Lovecchio, non abbiamo ben specificato che entro il 16 giugno si versa l'acconto, ma eventualmente chi lo volesse può pagare anche tutta la rata per intero, tutta la rata annuale. Sì, certo. Ovviamente, come avete ricordato, non applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno scorso, ma le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso. Naturalmente chi fa questa scelta deve avere una ragionevole sicurezza di non vendere l'immobile per nella seconda parte del 2010, perché altrimenti poi dovrebbe richiedere un rimborso al comune. Insomma, quindi poi le cose gli si complicano un pochino. Chi invece versa con ritardo oltre la data del 16 giugno va incontro a qualche sanzione oppure paga degli interessi? Come funziona, Lovecchio? Sì, funziona che c'è la possibilità di aderire al cosiddetto ravvedimento. Peraltro le sanzioni ridotte del ravvedimento sono state ulteriormente migliorate qualche tempo fa, per cui abbiamo il versamento che si fa nei 30 giorni successivi, quindi dal 16 giugno entro il 16 luglio, che viene maggiorato di una somma pari al 2,5% a titolo di sanzione ridotta, oltre interessi legali. E poi, superato i 30 giorni, fino al termine della dichiarazione dell'anno successivo, quindi stiamo parlando orientativamente settembre 2011, la sanzione diventa il 3%, quindi tutto sommato sono cifre piuttosto contenute. Se faccio decorrere anche questo i 30 giorni oltre i 30 giorni, vado oltre l'anno anche, se faccio decorrere utilmente anche il cosiddetto termine lungo, chiamiamolo così, che ho individuato a titolo orientativo nel settembre 2011, allora non c'è più la possibilità del ravvedimento, però sono passibili di una sanzione pari al 30%. Però qui ricordo sempre che i comuni hanno potere regolamentare in materia di ravvedimento e possono con proprio regolamento migliorare la disciplina statale, quindi prevedere o sanzioni più basse oppure anche termini più lunghi per ravvedersi. Certo, anche perché vorrei dire che ovviamente alla luce anche di questo provvedimento di 2 anni fa che ha reso esente molti contribuenti dal pagamento di questa imposta, magari qualcuno in totale buona fede non la versa più e magari non è consapevole del fatto invece che si trova nella rosa delle eccezioni che ancora devono versare. Per cui questo è bene che si sappia. Allora andiamo da Anna Maria da Roma. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, grazie per questo vostro servizio pubblico. Allora, la mia domanda è questa. Io qui a Roma vivo nella mia abitazione, nella mia proprietà, la mia abitazione principale, quindi non pago l'ICI. A Pescara però, dove vive mia figlia, in una casa che io ho dato a lei in comodato d'uso, quindi che per lei è la sua abitazione principale, distinguono fra abitazione principale di proprietà che è esente completamente dall'ICI e abitazione invece principale data, comodato, come succede a me con mia figlia, per la quale invece è prevista un'aliquota agevolata ma del 3,50 per mille, cioè non c'è. Invece qui a Roma mi hanno detto che in una situazione simile io sarei stata esentata anche qui. Infatti, proprio in virtù di quello che specificavamo prima, comunque c'è una larga autonomia sulla gestione di questo tributo da parte degli enti locali, degli enti delle amministrazioni locali, Lovecchio. Sì, allora dunque, quando dicevo prima che oltre alle case adibite direttamente all'abitazione principale beneficiano dell'esenzione le casistiche cosiddette assimilate all'abitazione principale sulla base di regolamenti comunali che fossero adottati alla data del 29 maggio 2008, perché si fa la fotografia di quello che esisteva alla data di entrata in vigore del decreto legge che ha disposto l'esenzione dall'ICI, mi riferivo proprio ad uno di questi casi che citava l'ascoltatrice, cioè in particolare se il comune alla data del 29 maggio 2008 avesse deliberato l'assimilazione all'abitazione principale delle case concesse in uso gratuito a parenti, allora questa fattispecie risulterebbe esente, completamente esente. però appunto dipende dall'esistenza di una delibera comunale. Se il comune di Pescara non l'avesse adottata questa delibera di assimilazione al 29 maggio 2008, allora obiettivamente la casa concessa in uso gratuito alla figlia dovrebbe scontare regolarmente le imposte. E tra l'altro stavo sempre osservando altri ascoltatori che ci scrivono, i locali adibiti ad uso commerciale, perché se sono proprietario di un negozio ovviamente questo è soggetto alla disciplina di versamento di questa imposta. Sì, non c'è nessuna peculiarità, bisogna semplicemente controllare qual è l'aliquota che il comune ha deliberato per questa fattispecie, perché i comuni potrebbero diversificare le aliquote anche in ragione delle destinazioni d'uso dell'immobile. Certo, no, tra l'altro poi noi stiamo facendo tutti i ragionamenti, come dire, dando per scontato il fatto che siamo proprietari di un immobile come prima, come seconda casa eccetera, ma ammettendo invece di stare rogitando adesso lo vecchio, no? Quindi l'ICI la pagherò probabilmente l'anno prossimo, come si devono conteggiare i mesi non dovendo versare ovviamente l'imposta per tutto l'anno? Sì, se io rogito adesso l'ICI la pago a 16 di dicembre. Perché pago già i mesi. Sì, certo. Perché pago i primi mesi. I giorni si conteggiano prendendo 15 giorni di possesso pari ad un mese, quindi se io rogito oggi ho per intero il mese di giugno, quindi non verserò nulla entro il 16 di giugno, perché se rogito oggi non ho nemmeno il mese di possesso, verserò tutto quanto. Regolo tutto a dicembre. Esatto. Mm. Perfetto. Allora andiamo a Gianni da Como adesso. Como, bellissima zona dove ci sono delle belle case di lusso. Gianni, lei abita in una villa... No, sto scherzando naturalmente. Un condominio. Però in particolare è una domanda molto simile a quella dell'ascoltatrice precedente. Sì. Devo chiedere una specifica in più. Io sono comproprietario insieme a mio fratello di due case, una dove abito io e una dove abita lui. Volevo capire se effettivamente c'era l'esenzione, proprio perché è residente un familiare, dal pagamento dell'ICI. In particolare mi sembra di capire di sì, ma bisogna poi verificare attraverso le delibere del comune, quindi quello di Milano piuttosto che quello di Como, ma in particolare se c'è l'obbligo di presentare una domanda specifica per richiedere l'esenzione. Perfetto, se è necessario fare una sorta di... Sì. Ecco, sapendo che sono esente, perché questa è la disposizione del comune, poi devo comunque presentare una domanda obbligatoriamente. Lei dice, insomma, per non saper né leggere né scrivere, magari è meglio che mi autodenunci, tra virgolette, la situazione. Esiste la necessità di fare una sorta di autocertificazione, lo vecchio, per documentare la situazione nella quale uno si può trovare, come il caso di Gianni? Questo dipende ovviamente dalla delibera comunale. Qui stiamo parlando di fattispecie di assimilazione facoltative tra virgolette, cioè che dipendono dall'aver adottato una clausola regolamentare. Allora, se il comune ha previsto che le case assegnate in uso gratuito a parenti sono assimilate all'abitazione principale e per esempio ha previsto che questa circostanza deve essere comprovata dall'esistenza della residenza anagrafica del parente che utilizza l'immobile, allora la prova, la dimostrazione è data dalla esistenza della residenza anagrafica e quindi non ho necessità di fare ulteriori dichiarazioni o cose di questo genere. Se invece il comune ha previsto, e alcuni comuni in effetti lo hanno scritto, che ai fini dell'assimilazione occorre presentare un'apposita una dichiarazione sostitutiva di notorietà entro un termine eccetera eccetera, allora io devo presentare, devo assolvere questo adempimento per rispettare le regole comunali e quindi per beneficiare di questa sorta di esenzione per assimilazione, chiamiamola così. Quindi insomma, per come dire, salvaguardare la tranquillità di Gianni, è bene che faccia una visita in comune, magari cerchi di capire se questo documento il comune lo richiede o meno. Sì, dovrebbe leggere il regolamento, come dovrebbe leggere con attenzione il testo del regolamento comunale che ha assimilato le case concesse in uso gratuito all'abitazione principale. Allora, guida all'ICI stamattina a Salvadanaio, con tantissime domande da parte vostra che stanno arrivando, segno che appunto la questione non è disciplinata in maniera così semplice, non è è perché 2 anni fa sono stata praticamente abolito il versamento di questa imposta per i proprietari, c'è tutto, appunto, c'è l'esenzione ovviamente per la prima casa, ma ci sono talmente tante eccezioni che naturalmente vi hanno scatenato stamattina. Abbiamo messo a disposizione il nostro migliore esperto sull'argomento, il nostro Luigi Lovecchio, 800 24 00 24 per i vostri quesiti. Ancora abbiamo tempo ancora per far passare qualche altra domanda. Era in attesa da un pochino forse Giovanna da Siracusa. Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah. Innanzitutto grazie per tutte le informazioni che ci date. Grazie a voi Giovanna. Allora, il mio problema è il seguente: posseggo un piccolo appezzamento di circa 1000 metri quadri e in questo appezzamento ci sono, tengo una roulotte e un prefabbricato su ruote. E per queste due, diciamo, proprietà, io pago l'ICI come seconda casa. No, ma perché immagino che lei la paghi per il terreno, Luigi Lovecchio, non tanto per la roulotte e per il prefabbricato che sono ubicati lì. Allora, per la roulotte certamente no. E quello che bisognerebbe capire è se il prefabbricato è accatastabile. Questo io francamente non sono in grado di dirlo in astratto, perché insomma rientrano nella nozione di edificio o di fabbricato tutta una serie di costruzioni che abbiano comunque un collegamento stabile con il suolo. Quindi non c'entra niente il terreno di cui è proprietaria? No, potrebbe anche essere, allora qui si tratta di capire, se la roulotte, eliminiamola, diciamo subito, allora se il fabbricato è accatastato, allora a questo punto non si tassa il terreno, ma si tassa il fabbricato, il terreno costituisce una sorta di pertinenza del fabbricato, che sia accatastato oppure no, la signora ovviamente lo saprà perfettamente, peraltro credo che sia implicito anche nella domanda, perché se la domanda dice io pago l'ICI come seconda casa, vuol dire che avrà avuto una rendita catastale e un accatastamento su questo prefabbricato. Quindi al comune risulterà che praticamente quella casa è ascrivibile a quella categoria? Sì, sì, esatto, perché vuol dire che il catasto gliel'ha data comunque un accatastamento, anche se si tratta di un prefabbricato, perché evidentemente integra le nozioni di base dell'unità immobiliare da accatastare in catasto. Allora, tra l'altro non abbiamo neanche specificato bene come si versa l'acconto, perché si può scegliere la modalità di pagamento con il modello F24 oppure si può versare con il bollettino di conto corrente postale. L'entità, l'importo, se non lo conoscessimo, Lovecchio, come lo possiamo calcolare? Possiamo fare da soli oppure è sempre meglio che il comune ci dica qual è la quota che ci compete a seconda appunto delle qualità, delle caratteristiche dell'immobile che occupiamo? Ma in realtà insomma potremmo anche far da soli, cioè si tratta di prendere la rendita che risulta in catasto, quindi facendo una visura catastale laddove già non l'abbia, rivalutarla del 5%, perché le rendite che risultano in catasto vanno tutte rivalutate del 5% per legge, e poi moltiplicare questo valore per il coefficiente che è stabilito per la categoria catastale dell'immobile. Nell'esempio delle abitazioni, per esempio, il coefficiente è 100. Quindi io avrò la rendita catastale rivalutata del 5% per 100. Questo è il valore imponibile su cui poi devo applicare le aliquote deliberate dal comune e poi ovviamente calcolare la quota di possesso fino al 16 giugno. Luigi da Belluno, buongiorno. Luigi. Io abito su un condominio in affitto su un appartamento. Sì. Sto restaurando una casa, la casa è a nome mio. Però non è abitabile perché è ancora senza finestre, senza tutto, senza niente. Volevo sapere perché devo pagare l'ICI come prima casa. Sì, è prima casa, ma però io come prima casa non la abito. Non la abita ancora, però ne è proprietario Luigi, quindi diciamo dal punto di vista fiscale magari avrà preso Lovecchio anche tutte le agevolazioni di cui peraltro abbiamo parlato anche stamattina a Sodi e dintorni legate a questa abitazione, pertanto è quello il passaggio. Allora, se la casa che sta costruendo non è ancora abitabile, quindi dice mancano proprio degli elementi strutturali. Sì, dice lo infissi. Sì, quell'immobile non è qualificabile come unità immobiliare, cioè non è qualificabile come fabbricato. La legge ICI in questo caso prevede che l'ICI vada pagata sull'area di sedime dell'immobile, cioè sull'area su cui insiste l'immobile, che va considerata come area fabbricabile, dichiarata come area fabbricabile. Questo sino a quando non sarà ultimata la costruzione dell'abitazione principale, perché quello che esente è l'abitazione principale, ma fino a che non c'è un'unità immobiliare qualificabile come abitazione principale, evidentemente l'esenzione non compete. In questo caso la norma dell'ICI dice: va bene, allora tu mi paghi l'imposta temporaneamente sull'area su cui insiste l'unità immobiliare su cui stai edificando. Quindi Luigi, mi rendo conto, ha ragione, che è frustrante, però questo è. Peppino da Milano, rapidissimo, perché poi abbiamo la sorpresina finale, vediamo l'ora di farvela ascoltare, quindi concludiamo rapidamente con l'ICI. Peppino. Sì, grazie di questa opportunità. Allora, nel comune dove abito, io ho un secondo appartamento al 50% con mia moglie, sì, che abbiamo dato in comodato d'uso gratuito a mia suocera, quindi alla mamma di mia moglie. Sì. Mia moglie, questo, il suo 50% è assimilabile all'abitazione principale, quindi non paga l'ICI. Mm-hmm. Io invece sul resto del 50% pago l'ICI a valore normale. E lei, insomma, voleva sapere se fosse giusto o meno. È giusto, cioè sullo stesso appartamento diviso a metà, diciamo una quota del 50% è esente da ICI e l'altro 50% tocca pagare l'ICI soltanto per una relazione di parentela. Lo vecchio, è giusto? Sì, è giusto, perché la norma dell'ICI in effetti prevede che l'assimilazione all'abitazione principale possa essere concessa solo se c'è una determinata relazione di parentela che deve individuare il regolamento comunale tra il proprietario e l'assegnatario. Evidentemente la relazione di parentela individuata dal regolamento del comune interessato include la moglie, ma non include l'ascoltatore. Quindi per la quota di pertinenza della moglie l'assimilazione opera in ragione della sussistenza del requisito della parentela, per l'altra quota non opera perché difetta questo requisito di parentela, ma è una conseguenza della disposizione di legge. Benissimo, benissimo, benissimo per la spiegazione, un po' meno per il nostro ascoltatore. Devo dare lo stop alle telefonate, la trasmissione si sta concludendo, abbiamo un'ultimissima chicca prima di salutarci, non riguarda l'ICI, riguarda i mondiali di calcio e la borsa. Voi direte, insomma, ma che diavoleria di relazione è? Adesso ve la spiego. Intanto Lovecchio, lei come si comporterà con questi mondiali? Un appassionato oppure abbastanza, trascura abbastanza il tifo, il calcio? Diciamo che mio figlio è un grande appassionato e coinvolge tutta la famiglia, e quindi coinvolge tutti. Va, immaginavo. Allora, siamo alla vigilia dell'avvio di questa avventura, abbiamo pensato di proporvi uno stralcio di un'intervista che è stata fatta dalla brava collega dell'agenzia del Sole 24 Ore Radio Corre, Leonora Micheli, al portierone della nostra nazionale Gianluigi Buffon. Ma anziché di strategie di gioco, il portiere ci ha raccontato, visto che noi ci occupiamo spesso di borsa e mercati, quali sono, sentite un po', le sue strategie di investimento. Gli scossoni della borsa delle ultime settimane, ma anche quelli che abbiamo visto a inizio 2009 e nel 2008, hanno impattato sui tuoi investimenti? Ma guarda, devo essere onesto, penso che ho la fortuna, ecco, di avere un buon portafoglio, anche quella che nei momenti di contrazione, ecco, o di discesa, è un momento ugualmente buono per poter continuare, se vogliamo, a comprare, chiaramente mediando così il prezzo e poi aspettando, diciamo, la risalita, perché di solito in linea di massimo sono sempre cose cicliche e dopo una grossa discesa di solito la risalita c'è sempre, ed è proprio lì che poi trovi un po' i frutti di quello che hai seminato prima. Però insomma stavamo ascoltando molto incuriositi la capacità di osservazione dell'andamento dei mercati finanziari da parte di Gianluigi Buffon, ma lo sappiamo che molti calciatori, anche in virtù ovviamente di quello che guadagnano, sono dei bravissimi gestori dei propri patrimoni e molto consapevoli. Io saluto Luigi Lovecchio, a presto, buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie molte. Noi, voi intanto, per tutte le domande che non siamo riusciti ad evadere, scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Tutta l'intervista a Buffon la potete ritrovare sul sito delle Sole 24 Ore. Noi ritorniamo domani e faremo il punto della settimana di borsa. Da Deborah Rosciani, buona giornata.